giovedì 31 luglio del 2014, 87.9 la modulazione di frequenza. Questa è Radio Onda Rossa. Dal 1977, libera da padroni e pubblicità, la voce dei senza voce, la radio di chi se la sente. Ognuno e ognuna di voi può contribuire a farla vivere e uno dei modi è la sottoscrizione. Ad esempio sul numero di conto corrente postale 61804001 da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Via De Volsci 56 00185 Roma, ma immagino anche semplicemente a Radio Onda Rossa. E poi l'altro modo è anche dal sito internet della radio, che è ondarossa.info. Sulla homepage c'è l'opzione sostieni per la modalità PayPal. Siamo all'appuntamento con il cinema. Ogni giovedì dalle 14 alle 15. Per saperne di più, la scaletta la trovate sul sito della radio. Lì trovate gli ospiti, le uscite in sala di oggi, giovedì 31 luglio. Nostri suggerimenti e indicazioni sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda la programmazione sul piccolo schermo. E poi il link per riascoltare la puntata precedente, ma anche l'archivio del 2014 e del 2013. Idem per quanto riguarda Facebook, per l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info. Oltre che sugli 87.9 modulazione di frequenza, potete seguirci anche in streaming dal computer, sempre dal sito della radio. Sull'home page c'è l'opzione ascolta la diretta. Beh, direi che cominciamo con i nostri collegamenti. Bene, cominciamo con Paolo Baronci di Empyreance, sulla piattaforma di cinema gratuita www.id. Paolo, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, grazie, un saluto a tutti. Beh, ho visto, mi era arrivata questa comunicazione da Sentieri Selvaggi. Ho letto di una piattaforma di cinema gratuita, ho detto ne parliamo, come no. E allora ho contattato voi, parlacene un po', Paolo. Assolutamente, dunque VIT è una TV online personalizzata suddivisa in sezioni, e quindi sono presenti l'animazione giapponese, una sezione dedicata ai film, domani lanceremo la sezione dedicata alla musica e in più c'è una parte dedicata invece alle serie. E in particolar modo per quanto riguarda i film abbiamo deciso di seguire tre filoni prevalentemente, che sono i film, diciamo, legati al divertimento, i film d'autore e i film asiatici. Ok. Senti, parliamo chiaramente della parte legata al cinema, anche l'animazione è in questo settore. L'archivio che mole ha a questo momento? Guarda, dunque, per quanto riguarda i film di animazione parliamo di più di 40 titoli di elevata qualità. Sono presenti ad esempio i film di Ghost in the Shell, Akira, i film di Evangelion. Mentre per quanto riguarda la parte non di animazione siamo partiti da due settimane e ogni settimana lanciamo tre nuovi film, ognuno per settore, come dicevo prima, e l'idea è di dare la possibilità per tutta l'estate agli utenti di vedere qualcosa di interessante. Senti, oltre a questi filoni, al di là di questi filoni, volevo sapere quali sono i criteri di scelta dei titoli. Ma guarda, l'idea che sta dietro VID è legata a due keyword fondamentali, che sono l'innovazione e l'immaginazione. In questo senso per noi l'animazione giapponese è in qualche modo una metafora perfetta di dove vuole andare VID, perché è una sintesi di appunto innovazione e immaginazione, quindi tutto viene ricollegato a questo criterio di fondo. Dopodiché per ogni filone, come dicevo prima, ci sono dei criteri specifici. Ad esempio nel caso del divertimento siamo orientati al grottesco, al surreale, al demenziale. Sì. E seguiamo questi tre filoni come imprinting. Sì. L'idea è sempre quella di stimolare l'utente con qualcosa non necessariamente di mainstream, ma sicuramente dotato di una sua energia positiva. Sì. Senti, fate riferimento anche a festival, cose che avete visto in giro per i festival internazionali? C'è un gruppo che seleziona titoli? Guarda, in questo momento c'è un all'interno della dell'azienda c'è una redazione che valuta di volta in volta i titoli e in genere cerchiamo di creare un rapporto positivo con i vari fornitori di contenuti. E ovviamente la partecipazione a un festival, l'eventuale vittoria, rappresenta per noi comunque un elemento di cui teniamo presente, ovviamente. Sì, sì, sì. Senti, com'è nato questo progetto, questa esigenza del web e della gratuità, che è un elemento fondamentale, direi. Sì, guarda, l'idea era che appunto la televisione probabilmente non rappresenta al meglio in questo momento una fascia di giovani che vanno dai 18 ai 40 anni e pensiamo che internet come piattaforma di riferimento al di là del broadcasting sia un'opportunità straordinaria per cambiare un po' le regole del gioco, nel senso che in un contesto da broadcaster il rapporto è da uno a molti. E con internet invece tutto questo può cambiare, si può transire da una TV generalista che subisce gli effetti del mainstream a una TV, se vogliamo, particolarista, consentimi il termine, in cui ogni singolo utente può trovare diciamo gli elementi che più lo soddisfano. Questa è un po' l'idea, quindi sviluppare tante nicchie significative legate ai gusti degli utenti. Visto che insomma avete affrontato questa esperienza, direi piuttosto significativa, volevo chiederti anche per come vedi allo stato attuale il rapporto tra il cinema con per esempio l'avvento delle multisale, la chiusura dei piccoli cinema, anche la crisi degli spettatori rispetto al calo fisiologico in atto, la televisione, il ruolo della televisione e quello del web. Dunque, diciamo, ci sono tante domande insieme. Allora, insomma, il cinema in tutto questo, ecco. Sì, assolutamente. Diciamo che per quanto riguarda il cinema, sicuramente è una fase di transizione. La qualità verrà preservata. È chiaro che oggi per sostenere un film si è costretti a tutta una serie di logiche in termini di budget e quindi si tende ad andare sul sicuro. In questo senso, secondo me, il web può dare veramente un contributo importante in termini di qualità. Sembra paradossale, quasi come se si fosse invertito un po' il trend che c'era qualche anno fa, dove sul web finiva qualcosa di meno pregiato rispetto ad altri contesti. Invece probabilmente, proprio perché si riesce a mirare su ogni singolo utente e creare un dialogo vero e proprio con delle community, il web può esprimere qualità se ben gestito. Per quanto riguarda invece la televisione, oggi vuol dire tante cose anche dal punto di vista del cinema. Sicuramente ci sono contesti interessanti come quello di Netflix, che prima o poi arriverà anche in Italia. Io credo che ci sia spazio per una offerta gratuita, importante e di qualità, e Vid si colloca esattamente in questo segmento, se vogliamo. Senti, allora, in chiusura, tecnicamente l'accesso a Vid ce lo spieghi? Sì, bisogna andare su vid.it, vid è scritto con 4V proprio per rafforzare questa presenza del video, e il ID sta proprio per l'identità dell'utente, quindi in questo nome abbiamo racchiuso questo senso di immersione di ogni singolo utente all'interno della piattaforma. Si va su vid.it, ci si registra, si può fare tramite Facebook o inserendo pochissimi dati. Si personalizza la piattaforma sulla base dei propri interessi e si parte. Benissimo, mi sembra piuttosto chiaro. Paolo, io ti ringrazio, un abbraccio e magari ci si sente per le prossime novità. Assolutamente, grazie a voi. A presto. A presto. Ciao. Ciao ciao. Paolo Baronci di Empyrience sulla piattaforma di cinema gratuita Vid con 4V. Francesco Cabras, co-regista del documentario Piccole Aragoste Crescono. Francesco, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, grazie, molto contento di essere qui. Bene, mi aveva segnalato, pensa, il tuo lavoro Simonetta Grechi del Clorofilla Film Festival qualche mese fa, e siamo riusciti alla fine a contattarti, tra l'altro in un momento buono, perché tra l'altro ho visto che sei in programma proprio al Clorofilla di quest'anno, il vostro lavoro è in programmazione all'interno del Clorofilla Film Festival in quelle di Festambiente di quest'anno. Sì, guarda, mi sembra dovrebbe essere una proiezione il 12 a Ostuni in Puglia e un'altra il 17 nel Parco della Maremma in provincia di Grosseto. Parco dell'Uccellina. Dell'Uccellina, sì, bellissimo. Francesco, raccontaci un po' questo Piccole Aragoste Crescono. Guarda, è un documentario, è un piccolo documentario che nasce da un'idea di Domitilla Senni, che è una studiosa campaigner di Ocean Eleven, che si occupa della tutela del mar Mediterraneo. Io sì. Mi scuso che ho una voce un po' stentata. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Quindi questa idea di Domitilla, è che poi è stata direttore di Greenpeace per tanti anni, sì. Era quella di portare alla luce un piccolo miracolo reale, però positivo, bello, insomma, che possa diventare possibilmente da parametro per il futuro, sì. Che è avvenuto in Sardegna, dove Gianni Usai, che era un ex operaio alla Fiat Mirafiori, sì. Sardo, dopo un anni di attività come sindacalista presso la Fiat, a un certo momento non ce l'ha fatta più, è tornato in Sardegna, riassumo molto brevemente, è tornato in Sardegna e ha iniziato a fare il pescatore e ha messo su una cooperativa a Supallosu, sì. Che è vicino Cabras, Oristano, per intenderci. Sì, sì, sì. Questa cooperativa di pescatori di aragoste aveva problemi, le aragoste stavano sparendo, i pescatori essenzialmente non rispettavano le taglie, la legge che dice che entro una certa taglia non si possono pescare le aragoste, altrimenti si depaupera, si sfrutta troppo il mare e si interrompe il ciclo di riproduzione. Sì. E Gianni Usai cosa ha fatto? Insieme con le sue esperienze anche sindacali eccetera, ha messo su un gruppo di pescatori, li ha convinti, uso questa parola che è un po' sbrigativa, insomma li ha resi consapevoli, ha condiviso la sua esperienza forte della collaborazione dell'Università di Cagliari e soprattutto del professore Angelo Cau, sì. Quindi c'è un supporto scientifico molto forte e hanno delineato un'area di ripopolamento, in cui i pescatori non sarebbero più andati per un certo tempo. E questo avveniva negli anni 90. E Francesco, quest'area era delimitata in qualche modo? Quest'area era delimitata, ma è delimitata da un punto di vista rintracciabile sugli strumenti di bordo, sì, quindi non si parla ovviamente, okay. di limiti fisici, perché nel mare come fai a mettere? Certo, certo. Quindi il fulcro di tutta questa situazione, di questa idea, di questo esperimento era rendere consapevoli i pescatori che pescando di meno si pescava di più, cioè pescando di meno significa rispettando alcune regole del non sfruttamento, del non sfruttare tutto e subito, insomma è una vecchia litania che dovrebbe, come dire, che ci serve a tutti, è il concetto del consumo, del non consumo, adesso la faccio breve, ma è un po' così, sì, no? Sì, certo, molto chiaro, cioè un'attitudine di lungimiranza e rispetto piuttosto che invece una di ottenere subito la cosa che si vuole, però insomma in pratica la cosa importante è che in poco tempo questa praticamente la cosiddetta biomassa, cioè le riproduzioni dei crostacei, delle aragoste, sono aumentate del 550%, che no, è un numero che è molto significativo. Certo, anche perché risponde, questo più in generale, non solo alla pesca, alla crisi del modello dello sviluppo infinito e al depauperamento delle risorse, insomma questo vale per la pesca ma insomma in qualunque altro campo. Assolutamente, infatti guarda, Sono d'accordo, nel senso la cosa penso più interessante di questo, ripeto, questo piccolo miracolo, di questo documentario che ha cercato di documentarlo, è proprio che si tratta di un esempio rispetto proprio alla definizione di sviluppo di questo del nostro tempo. Insomma, credo che o ci si rende conto che si debbano cambiare i parametri della definizione dello sviluppo, oppure sono guai per tutti, ma è una cosa pragmatica, è così. Certo. Francesco, come eravate venuti a conoscenza di questa storia, di questa piccola storia di pesca? Guarda, la storia, Alberto Molinari ed io, che siamo i registi, produttori, con la nostra casa di produzione si chiama Ganga, siamo venuti a conoscenza di questa storia tramite, ripeto, Domitilla Senni, sì, che noi abbiamo collaborato per tanto tempo con Greenpeace, e insomma ci parlava di questa cosa, e quindi insieme a lei, insieme alla Lighthouse Foundation, che si occupa di pesca in Europa, e con la collaborazione di Legambiente, abbiamo messo su questo documentario, che è stato poi, mi fa piacere citarlo, il montaggio è di Francesco Struffi, e insomma abbiamo realizzato questo documentario che si basa, guarda, su ciò che ci siamo detti adesso, e soprattutto sul personaggio di Gianni Usai, che è una personalità notevole, cioè è una persona abbastanza, ora, sia umanamente e sia, come dire, professionalmente, perché ha fatto delle cose notevoli, e umanamente è un uomo abbastanza fuori dal comune. Senti, ma anche in base a questi importanti risultati che ha raggiunto, è diventato un punto di riferimento in qualche modo? Guarda, il documentario cerca di raccontare anche questo, il dibattito è grande, nel senso che ciò che adesso io ti ho brevemente detto è tutto vero al 100%, ma è altrettanto reale, altrettanto vero che questa bellissima favola reale ha incontrato e incontra tuttora difficoltà enormi, perché in breve non viene quasi più supportata dalle autorità addette, insomma, come spesso accade, viene supportata dai fondi, perché chiaramente per tutelare e bloccare, tra virgolette, per un tot di tempo delle aree destinate alla pesca, ci vogliono dei contributi affinché questi pescatori possano in qualche modo sostenere questa, il rispetto di aree pescose. Da una parte quindi si parla di una difficoltà dal punto di vista ovviamente del governo, della regione, eccetera eccetera, regione che cambia personaggi e cambia protagonista ogni X mesi, quindi come avviene, inutile che te lo sto dire a te, no? Cioè, tutti promettono, poi se ne lavano le mani perché sanno che tra 4 mesi saranno spostati, no? E da una parte però, come dire, poi al di là delle giuste lamentele rispetto a chi ci governa, va assolutamente altrettanto sottolineato che l'altra difficoltà è quella da parte dei pescatori stessi, parte di questi pescatori non aderiscono a questo invito e continuano a pescare e a vendere sotto banco aragoste piccole. Bene, ci hai detto di queste due proiezioni all'interno del Clorofilla Film Festival, invece dei riferimenti web rispetto al documentario e alla vostra attività? Allora, il documentario si chiama Piccole Aragoste Crescono, come dicevi, e si può vedere sia su Vimeo sia su YouTube, sul nostro canale, che è il canale Ganga, e anche sul portale di Repubblica, dell'Espresso.it, c'è un grande articolo che ne parla, questi riferimenti, diciamo, generali. Poi poi digitando Piccole Aragoste Crescono escono tante cose. Quindi elementi a sufficienza ce ne sono, insomma. Sì. Bene, allora, Francesco, tu ci sarai a Festa Ambiente, al Clorofilla Film Festival? Guarda, io spero di sì, mi sto cercando di organizzare affinché ci possa essere, o io o Alberto, Domitilla, insomma, speriamo di esserci. Ci vedremo allora lì, se sarete presenti. Okay. Un abbraccio, ciao. Grazie, ciao. Francesco Cabras, co-regista del documentario Piccole Aragoste Crescono. Costanza Quatriglio, regista del documentario Lampedusani. Ben ritrovata, Costanza. Ben ritrovati. Come stai? Buongiorno. Bene, bene, bene. Nella trincea. Nella trincea. Rendi come bene sempre, l'idea. Come molti, come tutti. Certo. Senti, un titolo che sembra fa riferimento abbastanza chiaramente ad un'isola tristemente nota negli ultimi tempi, Costanza. Sì, la parola Lampedusani, così con la S maiuscola, è un guizzo di Harry De Luca, che la prima volta mi ha parlato di questa idea ancora completamente generica, quindi non concreta, ma molto bene a fuoco sul sentimento, sulle intenzioni. Mi diceva appunto che voleva approcciare gli isolani, no? Fare degli incontri con queste persone, raccontando non una santità, appunto, ma un essere sani in qualche modo, contrapponendolo. L'essere sani contrapposto alla malattia del razzismo, della chiusura, della cattiveria, diciamo, in qualche modo, no? Sì. Io tendenzialmente non amo i giudizi di valore, no? Nei miei film non ci sono mai, cioè cerco sempre di lavorare sull'esperienza, perché l'esperienza porti lo spettatore a fare il proprio giudizio, ad avere il proprio giudizio. Ma in questo caso mi è piaciuto perché comunque è un gioco di parole che aveva molto senso, che ha avuto molto senso poi negli incontri che abbiamo fatto, e quindi mi è piaciuto, ecco, che rimanesse. Da questi presupposti, come è stata l'avventura, come avete costruito questo lavoro, questa esperienza? Ma guarda, è stata un'esperienza veramente talmente veloce da essere quasi un capogiro, perché davvero, non sto scherzando, cioè la deadline era la consegna dell'8 luglio, perché l'8 luglio cadeva l'anniversario della visita di Papa Francesco a Lampedusa, e quindi l'idea era di portare questo racconto di 25 minuti in prima serata per TV 2000, perché l'iniziativa è stata di Paolo Ruffini, ex direttore di Rai 3 poi di La 7, e neo direttore di TV 2000, che in qualche modo dichiarava appunto con questo suo incipit, diciamo, prima produzione, di voler fare altre cose, quindi diciamo quella era stata la sua prima produzione in assoluto. Mi ha chiamato e mi ha detto: perché non vi rimettete insieme appunto dopo tanto tempo? Quindi è nata così la cosa, però è nata qualche giorno prima della fine di giugno, cioè noi praticamente, cioè tipo il 26, il 27, una cosa di questo genere, questa cosa non c'era nella faccia della terra, poi il 30 siamo partiti, quindi è stata veramente un'esperienza di una settimana e devo dire bellissima, ma anche stancante, cioè io ancora voglio dire, avendo lavorato veramente 24 ore su 24 per un po'. È stata bella perché siamo arrivati lì con l'idea di fare degli incontri, avevamo solo pochi contatti, quindi è stata poi ringraziando anche il sindaco che diciamo ci ha dato l'opportunità di conoscere delle persone, ma non solo, perché altre cose le abbiamo incontrate noi così strada facendo. È stato un viaggio, un vero viaggio a tappe, e il grande sforzo è stato quello di costruire una narrazione, un racconto. Costruire un racconto nel giro veramente di poche ore, capire cosa filmare, dove filmare, chi filmare, cosa raccontare, come farlo, e quindi alla fine è stato anche un'esperienza proprio cinematografica fortissima per quanto mi riguarda, sì, no? Sì. Perché ho dovuto fare una mappatura e il racconto c'è, perché si parte dal mare, siamo in mezzo al mare, cioè il primo sguardo appunto è di chi vede quello che succede, la tragedia, no? Il pescatore, poi siamo nel fondo del mare, poi risaliamo, siamo con le donne al molo, quindi c'è un percorso fino alla sorpresa finale, che è questo giovanissimo che studia, va a scuola ed è come pescato appunto dalla rete, questa volta purtroppo tragicamente sul serio, è proiettato verso il futuro. Costanza, quanti incontri più o meno avete fatto e che bilancio ne fai? Ma guarda, abbiamo fatto degli incontri, non sono tantissimi, cioè, tendenzialmente ho incontrato 3-4 pescatori, sì. Delle donne che lavorano tantissimo nell'emergenza, nell'accoglienza, ma anche delle insomma una ventina di persone, una quindicina di persone. Sì. Io faccio un bilancio interessante, ma anche c'è un grande punto interrogativo per certi versi, cioè io sento da parte, cioè ho incontrato delle persone che avevano una vocazione all'accoglienza, ma una vocazione non innata, cioè la cosa veramente interessante che ho imparato, l'ho imparato davvero lì, è la consapevolezza che quando sei in una situazione è la situazione che comanda. Cioè nel momento in cui tu ti ritrovi in un posto e in questo posto arriva qualcuno che ha necessità primarie come quella anche solo di essere asciugato dall'acqua, cioè tu essere umano non puoi non farlo. Sì. Che fai, no? Sì. E questa è una legge pazzesca, no? Cioè, voglio dire, è veramente quella cosa che dovremmo dire ai razzisti di turno, no? Che fanno dei ragionamenti esclusivi, di esclusione. E loro te lo dicono con molta semplicità. Loro ti dicono: io a un certo punto stavo a casa, la mia casa sulla spiaggia, ho visto queste persone nel buio, nel nero, che arrivavano dall'acqua, e il primo istinto è stato quello di chiudermi, avevo paura, e poi nel momento in cui ho avuto l'istinto di chiudermi ho aperto. E come ho aperto ho trovato il mio essere, cioè sono diventato un essere umano. Sì, sì, sì. Vero? Sì, sì. E questa cosa l'ho imparata, ecco, perché non ci avevo mai ragionato, no? Facciamo, sì, tanti discorsi, però poi bisogna stare nella situazione. Sì, sì, sì. Oh, questo è indicativo rispetto al rapporto tra gli abitanti e i migranti. E una curiosità che mi viene lampante è invece il rapporto tra i lampedusani e il resto d'Italia, sia rispetto al razzismo, sia rispetto alle aspettative. Ma guarda, io ho notato, cioè ho sentito che ci sono delle aspettative che sono state per troppo tempo disattese, per cui c'è in qualche modo una vita parallela. Tant'è vero che per esempio le donne che ho incontrato raccontavano della difficoltà che loro provavano quando poi le persone che avevano accolto venivano chiuse in un centro, questa permanenza nel centro diventava una permanenza lunga e loro non riuscivano ad avere alcun rapporto con le persone che stavano nel centro, dicendo: io non riuscivo neanche più a, come dire, ad avere un contatto umano con questa gente. Di fatto le aspettative sono state disattese perché non c'è stata, cioè loro hanno, i lampedusani hanno sopperito alle mancanze del governo. Ricordiamoci, stiamo parlando per esempio i tunisini del 2011, quando sono arrivati, credo che fosse il 2011, non vorrei sbagliare la data magari, no? Cioè loro hanno fatto tutto quello che doveva fare lo Stato e poi a un certo punto è arrivato lo Stato e quindi loro hanno una diffidenza gigantesca, sì, no? Sì. Cioè si mettono lì e dicono: ok, vediamo, cioè, no? Poi questo fatto che oggi per esempio il centro è vuoto, ma loro si ritrovano con la impossibilità proprio fisica, la impossibilità di costruire delle relazioni con chi avrebbe diritto di poter costruire una relazione lì dentro, in quell'isola, no? Sì. Per cui siamo, diciamo, è una vita, è come se fosse uno stato nello stato. Sì. Ha delle regole. Sì. E sono delle regole che sono completamente fuori, secondo me, almeno quello che io ho capito, poi magari mi sbaglio, qualcuno potrebbe pure dire: no, stai dicendo una cavolata, però mi sembra che siano delle regole che sono veramente, diciamo, delle leggi parallele, che sono quelle proprio fuori, ecco, fuori da poi quello, parliamoci chiaro, di una repressione gigantesca che c'è stata rispetto al contenimento, no? E alle politiche che sono state fatte negli ultimi anni. Perché noi veniamo comunque da Maroni, cioè noi veniamo dai respingimenti, sì, noi veniamo, sì, dal, sì, reato, sì, di clandestinità, che per fortuna non c'è più, cioè comunque ci stiamo portando dietro questa zavorra qui. Sì, sì, sì. Non è che non c'è stata, c'è stata. Sì, sì. Costanza, la nostra ultima conversazione era stata con il fiato sospeso. Un altro lavoro come questo, fuori, chiamiamolo fuori formato, il che mi sembra molto interessante e fecondo. Come mai? Ma ripeto, in questo caso è stata un'occasione veramente unica e credo abbastanza irripetibile, cioè andare a Lampedusa, sì, con Henry De Luca su così sollecitazione di Ruffini per un evento molto preciso. È chiaro che comunque la gestione libera così dei formati e dei linguaggi sta diventando qualcosa che si impone nella nostra cinematografia, secondo me. Cioè, sì, io la sento questa metamorfosi che finalmente prende forma e di cui finalmente la gente si accorge. È una metamorfosi lenta che è stata fatta, però che c'è stata nei 10 anni, perché poi alla fine, facendo rapido calcolo, siamo nel 2014, ci sono stati 10 anni di una cinematografia che si è esposta fuori formato, fuori tutto, praticamente parallela, no? Sì, oggi a un certo punto ce ne accorgiamo, ok? Prendiamo, come dire, dalla clandestinità si esce anche noi, diciamo, fuori da questo reato e siamo alla luce del sole, in qualche modo, no? La questione è molto seria, molto molto seria, è che adesso bisogna rifare i giochi. E io sono, devo dire la verità, abbastanza spaventato del fatto che c'è un tentativo generalizzato di rifarsi così un po' la faccia, no? Dire ah sì, è bene i giovani, è bene la sperimentazione, è bene qua, bene là, però poi io voglio vedere davvero che cosa significa poi in termini di politica culturale tutto questo. Sì, al di là delle belle parole, come dicevamo prima, insomma. Sì, sì, cioè, perché no, la cosa positiva è che almeno qualcuno adesso lo dice, no? Prima, cioè, i giovani ti sfanculavano, potevi solo morire. Con i giovani ti faccio le polpette. Oggi magari, no? Sì. Quasi quasi si comincia a capire che non puoi aspettare di diventare vecchio, diciamo, no? Però. Ecco, proprio in base a questo, come e dove sarà fruibile Lampedusani? Allora, Lampedusani, dopo appunto questa messa in onda lì, penso che verrà visto, ma non dove lo inviteranno, ma in realtà appunto essendo un piccolo film che avrà una sua vita parallela, sicuramente al Festival del Cinema di Lampedusa, che è un'iniziativa veramente molto molto molto interessante, di Laura De Licogli, Giovanni Spagnoletti, Massimo Ciavarro, so che insomma, che hanno costruito questo ponte tra gli abitanti dell'isola, isolani, e il cinema, no? Portando il cinema nelle piazze, nella piazza di Lampedusa. Quindi so che mi ha fatto molto piacere, ecco, quando hanno invitato la proiezione lì, ed è anche un po' kamikaze, un'operazione kamikaze, perché chiaramente siamo nel posto dove abbiamo filmato, cioè nei luoghi proprio lì. E poi non so, devo dire, è stato un po' invitato in giro, ma io spero che si veda, come di evergreen, ecco, diciamo che non scade, non è una cosa che scade, ecco, perché l'umanità non scade, ci sono incontri, rapporti umani, e poi ci sono i testi di Henri De Luca che io conosco. Poi con Henry avevamo condiviso questa cosa molto bella dell'isola, il mio primo film del 2003, quello che è stato a Cannes e tutto, dove lui faceva la parte di un confinato nell'isola. Sì. Perché lì, no? E quindi c'è, cioè, questo concetto di isola come prigione, l'avevamo nel 2003 pensato, ragionato, no? L'avevamo fatto nostro. E poi questo ritorno così su questo concetto, però tragicamente reale, non più, come dire, metaforico, non più così sospeso nel sogno di una bambina che era la protagonista di questo film, no, ma molto molto tragico, devo dire. Questa esperienza con Henry questo ritorno con Henry nel mare mi è piaciuto, sul mare, ecco. Costanza, come sempre è stato un piacere, io spero di risentirti presto. Sì, lo spero anch'io, no, è stato un piacere mio, grazie di questo interesse, ma grazie davvero. A presto. A presto. T'abbraccio, ciao Costanza. Arrivederci. Costanza Quatriglio, regista del documentario Lampedusani. Siamo in collegamento con Matteo Bastianelli, regista del documentario Mal di Mare. Ciao Matteo, come va? Ciao, bene. Bene. Tutto bene, grazie. Allora, è uno di quei lavori che mi ha interessato subito, a partire dall'argomento. Cos'è Mal di Mare, Matteo? Beh, Mal di Mare è un documentario che cerca di far luce sul dramma senza fine dei tarantini. Sì. È un film documentario che cerca di raccontare qual è la vita quotidiana a Taranto. Tutti abbiamo sentito attraverso le news, i telegiornali, la continua lotta tra magistratura e politica al centro del dibattito nazionale, ma poi fino in fondo non si va mai a capire com'è la vita quotidiana delle persone che ci vivono a Taranto. Si fa sempre un discorso dal punto di vista economico e industriale. Sì. Io, più che concentrarmi su l'industria, il PIL, ho cercato di dare voce alle persone che stanno vivendo questo dramma senza fine, fatto di aumento incredibile delle tutte le forme tumorali, fatto dell'impossibilità di coltivare fino a 20 chilometri dall'industria, da questo mostro che incombe su una città bellissima e ricca di storia. E quindi ho deciso di trasferirmi a Taranto e ho vissuto a Taranto per 4 mesi, mm-hmm, facendo più di 12 settimane di riprese insieme alla mia compagna, che ha curato il suono di presa diretta, Giuseppina Toti, e insieme lentamente ci siamo fatti rapire dal fascino di questa città e anche dalla difficoltà di vivere tutti i giorni con questa realtà. E abbiamo quindi dato voce alle persone che abbiamo incontrato durante il nostro percorso. Taranto è una città che vive tra i due mari, il Mar Piccolo e il Mar Grande. Sì. Quindi nella nostra storia non poteva non esserci il mare al centro del racconto. Abbiamo seguito un pescatore che rappresenta un po' anche l'emblema di quella parte della città che non vuole credere fino in fondo che il mare, la terra e l'acqua sono veramente inquinati e danno questa impossibilità di vivere. Da qui anche il titolo Mal di Mare, che è legato più a una sensazione di malessere che io ho respirato e che ho avvertito invece in quella parte della popolazione che si batte tutti i giorni per fare in modo che le cose cambino, sì, per fare in modo che sì, non ci siano più bambini malati di tumore o che non ci siano più morti all'interno della fabbrica. E quindi ecco, Mal di Mare è il risultato di un lavoro paziente e conoscitivo che ho portato avanti sia come fotoreporter che come documentarista. Mm-hmm. Matteo, la curiosità, hai realizzato queste interviste trasversalmente rispetto all'età, alle fasce sociali? Diciamo che non è un documentario classico. Sì. Rispetto a The Bosnian Identity, che è il primo lavoro che ho realizzato e per il quale ci siamo sentiti, sì, lo scorso, sì, sì, anno, sì, ho deciso di portare avanti la narrazione attraverso quello che accadeva in città. Mm. E quindi ci sono diverse fasce sociali, cioè dal ragazzo che vive al quartiere dei Tamburi e che fa parte di Peace Link, un'associazione ambientalista che si batte per il rispetto dell'ambiente. C'è una famiglia dove con un ex operaio dell'Ilva, ora in pensione, prepensionato, poiché già aveva i sintomi di una malattia incombente. C'è un'altra famiglia che ha perso un ragazzo di 16 anni da poco più di un anno per una malattia polmonare. Poi di sfondo abbiamo, come ho già detto in precedenza, un pescatore che invece da 30 anni pesca nel Mar Piccolo e nel Mar Grande e si rifiuta di credere che il mare sia inquinato, perché lui vede che i frutti di mare e i pesci continuano a riprodursi e gli consentono comunque di guadagnarsi da vivere. Sì. E oltre a queste persone poi ci sono due figure storiche dell'ambientalismo tarantino, che sono Fabio Matacchiera e Alessandro Marescotti, che cercano di far capire alla popolazione qual è la realtà, da dove è partito tutto, dalle analisi fatte a una forma di parmigiano che conteneva una quantità di diossina incredibile, e da lì nel 2008 sono partite poi le inchieste della magistratura che hanno portato all'arresto di molti politici e vertici dell'azienda. Diciamo che nel documentario il discorso va avanti proprio attraverso la vita quotidiana di queste persone, e il mostro rimane sullo sfondo, si sente, noi veniamo a conoscenza dei procedimenti giudiziari in corso e delle varie trasgressioni, chiamiamole così, del governo italiano in materia di normativa e di tutela ambientale attraverso le radio che le persone ascoltano in macchina o in casa. Io ho deciso di non coinvolgere politici o di non dar voce a delle persone che hanno già maltrattato tutti i diritti degli abitanti di Taranto, e quindi non dargli una passerella o l'ennesimo spot elettorale, quello già ce l'hanno ampiamente su i vari canali televisivi italiani. E quindi ho cercato solo di dar voce agli abitanti del luogo. Senti Matteo, rispetto alle persone che hai incontrato, hai visto e sentito in egual misura rassegnazione e voglia di riscatto? Beh sì, diciamo che è una sensazione ambivalente, perché dopo anni di lotte, anche i più tenaci, non vedendo risultati immediati, potrebbero cedere alla rassegnazione. Il fatto è che comunque questa è una lotta costante che continuano a portare avanti mese per mese. Noi abbiamo presentato il documentario al Festival di Bari ad aprile, e il giorno della proiezione, il 6 aprile, sono andato in manifestazione vicino Taranto, a Statte, dove c'è stata una marcia silenziosa fino a sotto le ciminiere dell'Ilva per chiedere basta, perché il territorio è completamente inquinato, pieno di diossina, non si può coltivare, i bambini continuano ad ammalarsi, ma le persone dignitosamente continuano a chiedere a chi ha il potere, chi avrebbe il potere di fermare tutto questo, di fare qualcosa. Quindi se da una parte c'è della rassegnazione, dall'altra c'è anche la voglia di cambiare le cose, e questo noi lo raccontiamo nel documentario, e ho continuato a seguirlo anche come fotoreporter adesso, e spero che possa cambiare la situazione a Taranto, perché noi abbiamo visto che di territori maltrattati ce ne sono tantissimi in Italia, dalla cosiddetta terra dei fuochi a Taranto, ma i luoghi delle emergenze ambientali non si contano. Ma più che un'emergenza ambientale, secondo me l'emergenza è fare in modo che i politici facciano in modo che le persone possano semplicemente vivere nei luoghi in cui lavorano, quindi non porre il ricatto tra occupazione, tra lavoro e salute, perché dovrebbe essere tutelato dalla Costituzione italiana. Purtroppo a Taranto, come in molti altri luoghi, non lo è, e quindi si usa il ricatto occupazionale, così come altre forme che surrettiziamente poi portano a far schierare anche la popolazione una parte contro l'altra, perché gli operai che devono lavorare sentono una cosa, le persone che vorrebbero tutelare la propria salute ne sentono un'altra. Non bisognerebbe creare questi conflitti sociali, lo Stato dovrebbe fare in modo di rimuoverli e creare le condizioni per vivere in modo normale. In una società ottimale, insomma. Senti Matteo, informazioni rispetto al tuo lavoro in rete, ma anche rispetto a un calendario di proiezioni, ci puoi dare maggiori informazioni? Allora, in questo momento io sono appena rientrato dalla Bosnia, perché vengo da 3 mesi di lavoro ancora in Bosnia, nei Balcani, e quindi sto rimettendo adesso le mani su Mal di Mare. Abbiamo iscritto il film a diversi concorsi internazionali e ancora non abbiamo delle conferme, delle novità, diciamo, sulle proiezioni. Quello che vogliamo fare è portare... Abbiamo iniziato da Bari proprio... perché abbiamo avuto l'opportunità di... Bari è solo un'ora di macchina da Taranto, e quindi tantissimi tarantini sono venuti a vedere il film, e questo per me era importante, avere una prima proiezione proprio per gli abitanti del luogo e per le persone al quale è dedicato poi questo lavoro. E a breve, insomma, dovremmo programmare una serie di proiezioni in Italia, così come abbiamo fatto per The Bosnian Identity, e aggiorneremo sia sulla pagina Facebook di Mal di Mare che sul sito web dedicato. Benissimo. Il film è presente anche sulla piattaforma Italian Doc e è stato appena iscritto al premio Doc Hit Professional Award, dove siamo stati finalisti l'anno scorso con The Bosnian Identity. Quindi speriamo di poter dare a breve delle date sulle nuove proiezioni e speriamo di trovare anche una distribuzione, perché essendo un film autoprodotto, nato da una mia idea e realizzato grazie a tanti professionisti con i quali ho collaborato in precedenza, tra cui Daniele Carlevaro che ha fatto il montaggio, Simone Dell'Orca e Gianluca Rebuzzi che hanno fatto le musiche originali, è un film dal basso come al solito, quindi lottiamo per avere una distribuzione, certo, lottiamo, certo, per avere visibilità per un tema che sicuramente non è al centro dei pensieri della maggior parte dei media news, dei media italiani. Va bene, tu facci sapere e tienici informati. Io ti abbraccio e a risentirci presto. Va bene, grazie. Ciao Matteo. Grazie, grazie. Matteo Bastianelli, regista del documentario Mal di Mare. Con noi Gaspare Pellegrino, coregista del documentario Se penso a casa. Ciao Gaspare, come va? Ciao, molto bene. Benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. E parliamo ancora di isole. Prima con Costanza Quatriglio si parlava di Lampedusani, il suo nuovo lavoro. E un'altra isola, un piccolo atto d'amore. Raccontacelo un po', Gaspare. Ma vabbè, sì, Se penso a casa parla di Favignana, soprattutto di Favignana in un periodo che va dal 2003 al 2008, periodo in cui praticamente l'isola eravamo in pieno berlusconismo e gli isolani, insomma, io sono molto legato all'isola di Favignana. Insomma, c'era molta preoccupazione perché praticamente si stava investendo molto sul cemento, e, insomma, si faceva un po' una razzia di tutto quello che poteva essere l'ambiente, quindi il mare e la terra. E, in pratica sì, c'era un'amministrazione comunale molto legata alle politiche Berlusconi, molto legata proprio a Berlusconi in persona, e quindi favoriva l'abusivismo edilizio, e l'area mega protetta veniva vista come semplicemente come un business per prendere soldi dall'Europa, e quindi insomma gli isolani gli abitanti di Favignana, insomma, ci hanno chiesto a me, a Corrado, di parlare un po' di questa cosa, di fare un documentario che sensibilizzasse un po' questa situazione. Quindi insomma noi dovevamo fare quello che ci chiedevano era di fare fondamentalmente un documentario d'inchiesta, cosa che invece noi che non siamo né giornalisti né documentaristi d'inchiesta non sappiamo fare, quindi abbiamo deciso di rivoltare un po' la situazione e parlare in realtà di bellezza, e quindi in maniera un po' più, diciamo, poetica, un po' più filosofica forse, ma parlare di bellezza, e quindi di bellezza rovinata, di bellezza distrutta, o di bellezza che può essere quindi comunque di uno sviluppo che può essere anche visto come sviluppo più sostenibile, non soltanto vendere cemento e farlo praticamente distruggere un po' l'affetto che l'isola aveva in quel momento. Gaspare, per chi ci ascolta, che dimensioni ha l'isola di Favignana e quanti sono i residenti? Ma i residenti sono un migliaio, sì. Che poi invece d'estate arrivano anche a 30.000 sì, a 30.000 sì, più o meno, ad agosto. E l'isola è grande più o meno il perimetro 20 chilometri, quindi insomma non è molto grande. Però in quell'isola c'erano degli interessi molto forti in quel periodo, adesso la situazione sembra un po' cambiata, però in quel periodo c'erano degli interessi molto forti, appunto, cioè addirittura l'Elemora venne a, insomma, cercò di fare una discoteca a Favignana, insomma c'erano proprio degli interessi diciamo proprio legati alla figura di Berlusconi in quel periodo, quindi insomma c'era un modello di sviluppo proprio orientato sull'abusivismo, sul distruggere un po' quello che era l'ambiente e l'ecosostenibilità. Ecco, e di contro la mobilitazione degli abitanti dell'isola cosa ha prodotto, Gaspare? Ma in realtà devo dire che gli abitanti erano, cioè la maggior parte almeno degli abitanti in quel periodo era molto preoccupata, e appunto noi abbiamo fatto questo documentario. Poi devo dire che appunto subito dopo ci furono le elezioni e questo sindaco cadde, cambiò un po', diciamo, la situazione, anche perché comunque vabbè, sul versante politico nazionale la situazione cambiò, anche insomma ci fu un po' la caduta di Berlusconi, diciamo, nel 2010, però diciamo adesso non so se tutto questo è legato al nostro documentario, però fondamentalmente noi abbiamo dato anche uno spostone. Sì. Senti, rispetto, dicevi che si occupa dell'isola per quello che è successo tra il 2003 e il 2008, bene o male. La situazione oggi? La situazione oggi, vabbè, appunto, è cambiata. Adesso, vabbè, ci sono state altre due legislature, sono cambiati due sindaci intanto, che sono comunque di sinistra, sono stati sinceri, adesso questo ultimo sindaco è un sindaco giovane, di sinistra, la situazione pare effettivamente cambiata. Anche l'area marina protetta, diciamo, viene utilizzata per quella che deve essere, quindi non soltanto un modo per prendere soldi dalla comunità europea, ma appunto viene, insomma, cioè effettivamente ci sono dei controlli a mare, a quanto pare si è un po' frenata questa frenesia di costruire case ovunque senza piano regolatore, il mare effettivamente sia un po' più ripopolato di pesci, ovviamente insomma non è, cioè, staremo a vedere, ovviamente, insomma, sembra che effettivamente la situazione è cambiata, sia cambiata un po' effettivamente. Per vedere, è migliorata sicuramente. Migliorata, insomma. Gaspare, per vedere il vostro documentario e informazioni in rete, ci puoi dire qualcosa? Guarda, in questo momento stiamo cercando di farlo girare nei festival. Potete vedere qualche nostro lavoro sicuramente nella nostra pagina Vimeo, che è, appunto, se cercate su Vimeo Club Silenzio, scritto Club Silenzio, trovate dei nostri lavori, però in questo momento non c'è ancora il trailer di questo documentario, però più presto ci sarà sicuramente. Quindi ancora sta girando per festival? Sì, sta girando ancora per festival. Benissimo. Gaspare, allora, in attesa di tue novità ci salutiamo, un abbraccio, a risentirci presto. Grazie a te, un abbraccio. Ciao. Gaspare Pellegrino, co-regista del documentario Se penso a casa. Ritroviamo Francesco Di Martino, uno dei registi del documentario Camminante. Francesco, ci sei? Ciao Federico, buon pomeriggio a tutti. Ben ritrovato, come va? Tutto bene, un po' di caldo qua in Sicilia, però devo dire tutto bene, siamo sempre al lavoro, come si sa dire. Bene, anche questo lavoro parla di Sicilia, Camminante, descrivicelo Francesco. Allora, intanto è un progetto che abbiamo fatto collettivamente, il collettivo Framoff, che è composto da Licia Castoro, Maria Vittoria Trovato, Francesco Valvo, Giuseppe Portuesi e poi ovviamente io. un lavoro che è nato nel 2010, ci siamo praticamente infilati dentro questa comunità che risiede qui a Noto, nel sud-est siciliano, da circa 60 anni, di cui non si sapeva nulla. Noi come nei team per primo, la nostra intenzione era riuscire a capire un po' di più di questa gente che vive a 500 metri da dove vivo io praticamente. Quindi ci siamo infilati dentro questa comunità per circa 2 anni, abbiamo vissuto praticamente con loro quotidianamente e abbiamo cercato di raccontare la loro quotidianità, quindi un po' le loro relazioni che hanno con la città, con le persone, la loro vita quotidiana, il tutto cercando di rimanere un po' invisibili. Cioè, infatti il film non è un film molto antropologico, di studio, e abbiamo cercato di essere proprio, di non modificare un po' i loro comportamenti, ma cercare di restare proprio invisibile, il termine giusto, e riuscire a immortalare un po' quello che fanno quotidianamente senza modificare i loro comportamenti. Senti, che origini ha questa comunità? Allora, così a un primo approccio tutti direbbero che sono zingari, ma in realtà non sono zingari, sono siciliani come noi, e loro appartengono un po' alla tradizione dei vecchi carrettieri. Loro prima giravano con i carretti siciliani e seguivano praticamente la stagione, quella agricola, che c'era in Sicilia, no? Nei tempi che furono. E quindi loro praticamente, proprio girando, non si fermavano mai, quindi da lì hanno acquisito un po' questo, diciamo, questo nomadismo. E poi negli anni intorno al 43 trovarono residenza a Noto e si fermarono qua, proprio si stabilirono qua. Inizialmente erano in pochi, oggi sono in 2000 qui a Noto, in Sicilia sono circa 6000. Quindi da lì è nato tutto. Poi il carretto con gli anni si è trasformato in camper e oggi in furgone, attrezzato, che loro attrezzano subito appena compiono i 18 anni. I ragazzi giovani si comprano il furgone, lo attrezzano come un camper e cominciano a girare la Sicilia facendo un po' i venditori ambulanti, gli stagnini, gli ombrellai, qualcuno ancora lo fa anche se ormai è sparito come mestiere. Quindi artigiani principalmente. Senti, com'è la relazione con il resto della città e più in generale, poi se sai qualcosa in proposito, visto che hai detto che in tutta la Sicilia sono 6000, con le altre comunità con cui vengono a contatto? Ovviamente, come il caso dei Rom in Italia, vengono comunque, c'è una discriminazione abbastanza forte. A Noto, ad esempio, nel mio paese c'è proprio una totale chiusura da parte dei cittadini. Infatti noi inizialmente, quando abbiamo cominciato questo lavoro, abbiamo subito anche molte critiche. Poi invece questo lavoro è servito un attimino alla gente a capire un po' di più su questa comunità, perché noi ci siamo proprio infilati dentro, abbiamo fatto anche un viaggio con loro, per dire, no? E quindi diciamo che purtroppo anche nelle altre città, io ti faccio un esempio, a Belvedere, che è un altro paesino che c'è qua vicino, ad Adrano, oppure anche a Palermo, vengono sempre comunque visti come degli zingari e quindi in qualche modo vengono isolati. Cioè, anche dove si accampano loro solitamente con i furgoni, loro solitamente li puoi vedere quando ci sono le feste sacre, no? Sì. Perché vendono i palloncini, e quindi loro poi trovano, diciamo, alloggio in parcheggi che sono comunque sempre periferici, si fermano col furgone là e quindi vengono visti sempre comunque in un modo abbastanza, no? C'è sempre questa discriminazione in qualche modo che viene fuori. Sì. Nei loro confronti, perché vengono considerati zingari comunque. Perché comunque c'è da dire anche una cosa, che una parte della comunità ovviamente è legata anche alla criminalità organizzata, perché la comunità stessa all'interno ha quasi una sorta di classi sociali all'interno. Ci sono quelli più ricchi, quelli più poveri. Quelli più ricchi ovviamente sono legati, ad esempio, a Noto qui, quelli più ricchi sono legati al clan che c'è qui, al clan locale. Okay. E quindi molti sono comunque, hanno situazioni anche di droga, di armi, eccetera eccetera, comunque. Però non è tutta la comunità, ovviamente è una parte, però c'è anche questa realtà, cosa che ad esempio noi nel film non siamo riusciti proprio a documentare, perché ce l'hanno in qualche modo impedito. Ce l'hanno. Ecco, dicevi dell'attività di artigianato, del fatto che comunque è una comunità nomade, e volevo chiederti anche, dicevi anche di una organizzazione a classi al loro interno, ecco, com'è strutturata la loro, per esempio, le famiglie e il rapporto uomo-donna? Allora, considera che prima la comunità era molto unita, nel senso che c'era un punto di riferimento che era anziano, che in qualche modo gestiva un po' tutte le famiglie. Noi quando cominciamo a girare il film, dopo circa 7 mesi, ci siamo resi conto subito che in realtà la comunità era divisa all'interno e che ormai ogni famiglia faceva riferimento a una persona. Quindi vi faccio un esempio: ormai se prima c'era un capo, ora ce n'è 4 capi all'interno. E tra l'altro questi 4 capi tra di loro sono anche in concorrenza comunque, quindi non tutti sono uniti, anzi. Qui nel periodo ad esempio di Natale, che quando loro rientrano tutti a Noto, perché poi tutti questi che abitano fuori dalla Sicilia o anche all'interno della Sicilia, appunto a Palermo, in realtà sono tutti collegati qua a Noto, è una sorta di base, mettiamola così, e loro cioè durante le feste, tipo il Natale, la festa dei morti, loro rientrano qua perché si riuniscono tutti, e quando si riuniscono tutti, siccome ci sono quelli che stanno diciamo in concorrenza tra di loro, succedono anche situazioni in cui litigano, ma litigano pesantemente, cioè che si prendono a coltellate o a colpi di arma da fuoco, però cercano di nascondere sempre tutto, cioè non c'è quella situazione in cui poi viene, no, cioè c'è sempre l'omertà, comunque per loro è una cosa fondamentale, perché non si deve sapere quello che succede anche tra di loro, perché l'immagine che vogliono dare fuori è di una comunità unita, ma invece non è così. Ovviamente l'immagine della donna che viene fuori è quella della donna sottomessa, ma in realtà non è nemmeno così, perché la donna dentro la comunità invece è quella più intelligente, è quella che gestisce un po' l'ambiente familiare, come è giusto che sia, perché si occupa dei figli. Poi considera che loro già, soprattutto donne, cioè, hanno figli a 17-18 anni, quindi già una ragazza di 17 anni già magari c'ha 2 figli, ho 3 figli già a 20 anni, e quindi deve crescerli, deve portare avanti comunque la famiglia, quindi anche da questo comunque viene questa maturità poi nel saper gestire un po' la famiglia. Però l'immagine che danno fuori può essere questa, cioè quella che la donna è sottomessa come lo era nell'antica Sicilia, ma non è così. Non è così. No. Senti Francesco, allora intanto ti chiedo anche di questo titolo, Caminante, e poi dove sarà possibile vederlo? Allora, noi il film in realtà, vabbè, Caminante perché proprio dal camminare, il fatto che loro giravano, sono dei girovaghi, quindi da lì si sono poi auto, diciamo, si sono messi questo titolo da soli, ok? quindi abbiamo ripreso un po' quello che come si autodefiniscono loro. Sì. Il film noi l'abbiamo presentato per la prima volta nel 2013, gennaio 2013, al Centro Sperimentale a Roma. Però siccome c'è un libro anche, perché c'è un bellissimo lavoro fotografico fatto dalla mia collega Maria Vittoria Trovato, e poi c'è anche un testo che ha scritto Francesco Valvo, l'altro coautore, siamo in attesa da circa quasi un anno di tirare fuori questo libro, che è già pronto, stiamo cercando solo la casa editrice, che in realtà ora forse abbiamo trovato, che ci pubblichi questo libro, e quindi libro più DVD, e quindi se tutto va bene per questo dicembre dovrebbe essere presentato ufficialmente il libro con il film. Okay. Però abbiamo perso tempo, quasi un anno, perché il film l'abbiamo presentato nel 2013, abbiamo fatto anche altre presentazioni, siamo stati in diversi festival ovviamente, però ufficialmente non è ancora uscito, quindi se tutto va bene dicembre 2014. Avete un vostro riferimento internet? Ovviamente abbiamo il sito frameoff.it, dove c'è anche il progetto che si può vedere, e tutti gli altri. C'è anche un trailer di 2 minuti circa che si può vedere, che dà un po' la visione di questo lavoro. Allora, un abbraccio e a risentirci presto, Francesco. Dai, grazie mille Federico. Ciao. Buon pomeriggio. Ciao. Anche a te, ciao. Francesco Di Martino, co-regista del documentario Caminante. Oh, proprio a proposito del Teatro Valle Occupato, a cui abbiamo dedicato anche la copertina della nostra newsletter e della pagina della trasmissione di quest'oggi sul sito della radio, parliamo con Valerio Cuccaroni di Argo della campagna di crowdfunding per un documentario che avrà come titolo Luoghi Comuni, gli spazi culturali occupati si raccontano in video. Valerio, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie. Allora, intanto spieghiamo Argo, cos'è Argo che ha lanciato un po' questa iniziativa? Argo è un collettivo formato da giornalisti, grafici, scrittori, nato nel 99 a Bologna, e il quale ha svolto diverse attività, la principale delle quali è una rivista che si chiama appunto Argo, che viene pubblicata dal 2000 e che si occupa prevalentemente di analisi della società dal prisma delle arti, della cultura. Da qualche anno abbiamo inaugurato una collana omonima, quindi la collana Argo, con gli editori con cui pubblichiamo la rivista, e Luoghi Comuni è una delle prossime uscinette di questa collana. Allora, come è nato il progetto, come lo state sviluppando? Il progetto è nato perché Argo fa parte di un'associazione che ha sede ad Ancona, e questa associazione, che si chiama Niviem, organizza un festival del cortometraggio. 2 anni fa abbiamo ospitato nell'ambito del festival il Teatro Valle e abbiamo organizzato assieme la proiezione di alcuni video del Teatro Valle e di altri spazi culturali occupati da Macao al Balena di ex asilo Filangieri di Napoli, passando per Nuovo Cinema Palazzo, eccetera, durante il festival. Era stata una bella serata, avevamo visto dei documenti interessanti. Allora, con il regista Berardo Carboni, che sta al Valle, e Luca Franco, esperto in documentari, e il direttore artistico del Festival Corto Dorico, Roberto Nisi, abbiamo deciso di allargare l'esplorazione anche ad altri spazi e pubblicare un DVD che raccogliesse video del Valle, tra cui per esempio la costituente dei beni comuni con Stefano Rodotà, o lo stesso film Euros, che è un viaggio per l'Europa degli spazi, dei beni comuni sostanzialmente, fatto da alcuni attivisti del Valle e per la regia di Berardo Carboni, assieme ad altri video di appunto degli spazi che dicevo prima. A questo DVD si abbina un libro con delle schede sui vari spazi a documentare quello che a nostro avviso è il più interessante fenomeno controculturale dell'Italia di questo inizio di XXI secolo. Allora, dicevi dei due spazi romani, che sono il Cinema Palazzo, il Teatro Valle Occupato, di Milano, di Napoli, e avete fatto riferimento anche ad altri luoghi? Sì, per esempio c'è Sale Dox di Venezia, ci sono i teatri di Catania e anche di Messina. Sì. Che appunto hanno inviato i loro video. Abbiamo appunto il Teatro Pinelli Occupato di Messina e il Teatro Coppola di Catania. Poi abbiamo un documento anche dell'ex colorificio Liberato di Pisa, che anche se è stato sgombrato, comunque mantiene il suo sostegno al progetto e è interessato a far conoscere questa realtà, che è stata molto importante e che sperano di poter continuare. E poi il Teatro Rossi Aperto di Pisa, e ecco, questi sono in linea di massima gli spazi che abbiamo coinvolto nel progetto. Senti, sono lavori, materiali che hanno realizzato loro in prima persona o c'è anche uno sguardo esterno? Sono tutti video autoprodotti. Sì. Dagli spazi, alcuni che hanno il carattere della testimonianza, altri invece che hanno un profilo anche estetico, insomma, pensati per essere anche dei bei video appunto. Quindi abbiamo questi lavori soprattutto che provengono dagli spazi. Sì. Senti, ma ci saranno proposti integralmente e uniti insieme, o ci sarà un lavoro di montaggio in proposito? No, ci sarà nel DVD la possibilità di scegliere quale video vedere e quindi ciascuno insomma si farà un po' il suo percorso. Non è un unico lungo documentario con tutti i video montati, anche perché ciascun video ha una propria identità, una propria autonomia. Sì, sì, sì, sì, sì. Senti, i materiali vi sono già arrivati tutti? Sì, il DVD è praticamente pronto. Adesso abbiamo avviato questa campagna di crowdfunding che si sta concludendo, una prima campagna, poi ce ne saranno altre, però intanto nel sito Indiegogo c'è la possibilità di sostenere il progetto e in cambio si avranno appunto poi dei perks, delle donazioni, soprattutto relative appunto ai DVD, DVD più libro. Ed ecco, siamo in fase di post produzione sostanzialmente. Diciamo che l'ostacolo più grosso è la CI, paradossalmente, ma neanche tanto, perché insomma si tratta di appunto video autoprodotti, spesso da collettivi, attivisti o artisti che hanno circolato negli spazi, che poi se ne sono andati da qualche altra parte, quindi insomma adesso la grande difficoltà è quella di radunare tutte le dichiarazioni, quindi più che altro di livello burocratico, altrimenti dal punto di vista del materiale siamo a posto. Senti, da un punto di vista dei contenuto, dei materiali, c'è un tratto comune che hai individuato, avete individuato visionando questi lavori rispetto ai beni comuni, rispetto alla cultura? Beh certo, c'è innanzitutto quello di prendersi cura di un posto, quindi diversi di questi video mostrano anche proprio come sono stati ristrutturati dagli attivisti, dagli occupanti, e quindi con una tecnica delle immagini accelerate, con delle musiche, spesso musiche elettroniche, anche di piacevole ascolto, e si documenta come questi spazi abbandonati, distrutti, abbiano ripreso vita e siano diventati spazi di socialità. Questo è un elemento che ricorre in più video. Poi un'altra cosa che ricorre sicuramente sono alcune battaglie e anche alcuni scontri, per esempio c'è, per quanto riguarda il nuovo Cinema Palazzo, il video in cui si documenta la conferenza stampa in cui Capezzone aveva sostenuto la proprietà che era intenzionata a trasformare il nuovo Cinema Palazzo in un casinò, da una parte, e dall'altra Sabina Guzzanti che intervenne a sostegno in quell'occasione del appunto nuovo Cinema Palazzo, e quindi è documentato un po' questo scontro verbale. Oppure invece in chiave fiction, in chiave di ricostruzione immaginativa, Capitan Sigillo, per quanto riguarda l'ex asilo Filangieri, che è un video in bianco e nero che mostra in maniera ironica, come fosse un film muto degli anni 30, la lotta per diciamo aprire questo spazio che venne inaugurato, lo ricordiamo, quando a Napoli si spesero un sacco di soldi per recuperare degli spazi per dei grandi eventi che poi invece rimasero così inutilizzati. Senti, del riferimento Indiegogo ci hai già detto, rispetto alla vostra attività e al progetto documentario, ci sono altri luoghi internet cui far riferimento? Sì, c'è la pagina Facebook della rivista Argogra, c'è il sito del Teatro Valle in cui c'è una finestra che documenta questa campagna di autofinanziamento e di crowdfunding, e il sito di Argo stesso, argoonline.it, quindi insomma in rete si trova tutto. Tra l'altro ci tengo comunque a dire che questi sono giorni caldi, come avrete lo stiamo documentando, detto. Sì, sì. E quindi ringraziamo moltissimo gli attivisti del Valle che, nonostante la loro situazione difficile, hanno voluto e saputo trovare tempo e energie e modi per sostenere questa iniziativa. Benissimo Valerio, allora un abbraccio, ci sentiamo poi per le novità. Va bene, grazie a voi. A presto, ciao. A presto. Valerio Cuccaroni di Argo sulla campagna di crowdfunding per il documentario Luoghi Comuni, gli spazi culturali occupati si raccontano in video. Bene, avevamo detto della possibilità di un ultimo collegamento e lo abbiamo realizzato direttamente dal Bellaria Film Festival. Uno dei contatti che avevamo è con il regista Germano Scurti per il lavoro Elegia per la vita, e dovremmo averlo in collegamento. Si sta piazzando in un luogo consono e dove ci sia una recezione migliore. Intanto vi ricordo che questa è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema ogni giovedì dalle 14 alle 15. Le informazioni per quanto riguarda la scaletta: potete visitare il sito internet della radio, che è ondarossa.info. Alla voce trasmissioni visionari trovate gli ospiti di questa puntata, le uscite in sala di oggi giovedì 31 luglio, nostre indicazioni e suggerimenti sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda la settimana sul piccolo schermo, poi il link per riascoltare la puntata precedente, ma anche tutto l'archivio del 2014 e anche del 2013. Idem per quanto riguarda la pagina Facebook di Visionari, l'indirizzo di posta elettronica per comunicare con noi è visionari@ondarossa.info. Germano, sei raggiungibile adesso? Sì. Oh, ciao, buongiorno. Benvenuto così all'improvviso. Sì, ti ho colto di sorpresa per questo collegamento. E tra l'altro stavamo parlando con Valerio Cuccaroni di una campagna di crowdfunding per il documentario Luoghi Comuni, gli spazi culturali occupati si raccontano in video. E sempre di arte parliamo, in una realtà non metropolitana, ma dici tu, cos'è Elegia per la vita? Ah, è un documentario ambientato negli anni 70 che racconta un po' uno spazio off, per riprendere il discorso come l'hai introdotto tu. Sì. È uno spazio off dedicato all'arte, ed è la storia di questo spazio, diciamo di una generazione che ha vissuto quello spazio, e in particolare di un uomo che ha investito la sua vita per costruire un sogno, insomma, pensare che i linguaggi espressivi potessero dare un contributo piuttosto significativo allo sviluppo di un territorio, allo sviluppo di una città. È stato un percorso molto molto importante per la città di Pescara, che è la città da cui chiamo, ed è la città in cui è ambientato questo racconto. Che non aveva un grande ricordo, si era un po' dimenticato, era andato a finire nell'oblio, insomma, anche perché, diciamo, che le città moderne tendono a consumare molto molto velocemente, insomma, e quindi non riescono neanche a sedimentare le esperienze un po' esemplari che ci sono state. E l'idea di poter raccontare questa storia ha anche un significato, insomma, di questo tipo, cioè quasi fare una politica della memoria. Senti, hai parlato della figura di una persona in particolare, che però ha avuto un suo seguito, si è creata una sorta di movimento intorno a queste gesta. Erano anni estremamente vivaci, quindi poteva essere, rispetto alla situazione, poteva essere più semplice riuscire a catalizzare energie e a farle abbastanza esplodere. E di fatto poi il mio tentativo è stato anche quello di provare a entrare in relazione, insomma, con quel tipo di esperienza, ma entrarci dal punto di vista attuale, insomma, no? Quindi provare a costruire un racconto che mettesse in luce una serie di mancanze che ci sono oggi, diciamo che è un'interpretazione del passato, ma assolutamente con gli occhi di oggi, insomma, perché non è tutt'altro che un racconto, diciamo, che vuole celebrare, no? un periodo storico o una persona in particolare, una storia in particolare, ma vuole un po' interrogarci su quello che viviamo noi, insomma, e probabilmente anche sul tremendo dispendio e dissipazione che abbiamo vissuto in questi ultimi 2 o 3 decenni. Senti, partendo proprio da quel periodo storico e da quella creatività, ecco, cosa ha prodotto e in che lasso di tempo? È stato lo spazio in cui è cresciuto Andrea Pazienza, per esempio, perché Andrea Pazienza ha vissuto gli anni del liceo qui a Pescara e lui, quindicenne, sedicenne, è diventato il socio fondatore di questo spazio. È una cosa abbastanza sorprendente, insomma, no? Pensarla adesso, che è una galleria importante, una galleria che si occupa di arte. In particolare però non di arte tradizionale, ma ovviamente di arte contemporanea, che possa avere tra i propri soci un pensato sconosciuto, stiamo parlando di un ragazzo, un brillante studente del liceo, ma era un perfetto sconosciuto, che potesse inserire, insomma, appunto, un ragazzo di 15 anni, di 16 anni dentro il proprio statuto, farlo diventare un socio fondatore, insomma, è un atteggiamento nei confronti della gioventù che è abbastanza lontano da quello che viviamo oggi. E anche questo, insomma, non è un elemento, mi sembra, abbastanza significativo nel rapporto tra presente e passato, senza, ritorno a dire, senza celebrare il passato, perché è un passato che ha vissuto anche momenti tremendi, ma sempre cercando di vivere criticamente quello che è il nostro mondo, quello attuale. E ha prodotto quello spazio, dicevo, insomma, no? Ha prodotto una pluralità, insomma, no? Di artisti, ha dato occasione di crescita a una pluralità di artisti che hanno poi segnato, insomma, no? Percorsi piuttosto importanti. Ma al di là di questo c'è stato proprio un coinvolgimento abbastanza generale, dal punto di vista fruitivo dei, diciamo, dei consumi culturali, che ha coinvolto, insomma, l'intera città. Questo è ancora più importante, non può anche non essere importante il fatto che siano usciti o non usciti da quello spazio artisti famosi, no? Quello che è più importante è la capacità di coinvolgimento nel territorio. Ecco, dicevi delle città che oggi hanno la tendenza a superare velocemente il loro passato come un bene di consumo, di facile consumo. Occupandomi di cinema e di teatro, so che a Pescara si muove qualcosa in ambito teatrale da diversi anni. Volevo sapere, ecco, da te com'è la situazione oggi? Provare a descrivere un territorio, insomma, un territorio come Pescara, che è una città estremamente, diciamola così, insomma, è abbastanza moderna e vorrebbe avere anche una vocazione dedicata alla contemporaneità. Le difficoltà che vive questa città sono più o meno poi le difficoltà che vivono tutti i territori italiani. Per quanto riguarda la dimensione culturale, ci sono energie, insomma, professionalità piuttosto significative, direi, forse non particolarmente generalizzate, ma alcune piuttosto significative, che comunque, adesso non per fare vittimismo e non per relegarli al ruolo di vittimismo, ma comunque sono decisamente mortificate rispetto ai rapporti istituzionali, rispetto alle possibilità che possono avere di costruire un percorso creativo, che non riguarda semplicemente, no? Non sappiamo, non riguarda semplicemente quelle persone, ma di fronte all'arte, il bene arte, il bene cultura, diciamo, di fronte alla capacità di espressione umana, stiamo parlando di beni collettivi, insomma, di beni comuni, beni comuni. E quindi non si tratta di persone specifiche, ma attraverso quelle persone, la produzione di quelle persone, la creatività di quelle persone, si riescono ad avere delle dimensioni di beni che riguardano tutti, che riguardano il territorio in cui si abita, che è fatto di materia, di fisicità, di strade, di case, ma anche il territorio che sia dentro la testa. Ci sono dei segnali di controtendenza? C'è qualcosa che si muove? Giovani che si auto-organizzano in questo senso? Sì, credo di sì, credo che ci siano, anche se poi hanno uno sguardo, per fortuna, insomma, no? Hanno uno sguardo non meramente territoriale. Sì. Questo anche dipende dai contesti in cui vogliono, no, collocarsi. però insomma tendenzialmente soprattutto i giovani credo che non abbiano un radicamento territoriale. Senti, invece rispetto, tornando alla materia del tuo documentario, intanto ti chiedo di questo titolo, Elegia per la vita, e poi se esiste in qualche modo anche un territorio che conserva memoria. Guarda, allora, il titolo è un titolo che è legato a forse un destino generazionale, il destino del decennio degli anni 70, della generazione degli anni 70, che poi ho provato a fare incarnare in due persone, nella storia di due persone, in generazioni assolutamente lontane. Una di queste è Peppino D'Emilio, che è appunto il protagonista di questa storia, che ha costruito insomma questo percorso legato a questo spazio che si chiama Convergenze, ma che ha avuto una durata abbastanza breve, 5 anni, insomma, poi si è trasformato, è diventato un'altra cosa, ma una durata diciamo abbastanza breve. E anche Peppino D'Emilio poi ha diciamo in qualche modo vissuto un destino non particolarmente felice, ma esattamente opposto, insomma. È venuto a mancare prematuramente per tutta una serie di ragioni. Ho provato ad evocare insomma un'associazione tra il destino di Peppino D'Emilio e i suoi sogni, no? Che sono andati a finire in questo modo, insieme con un po' il destino anche di Andrea Pazienza, questa straordinaria figura di un'energia vitale spaventosa, insomma, no? E nello stesso tempo anche di una fragilità che è andata ad autoconsumare insomma dell'esplosione di vitalità che incarnava, che per me insomma è un po' un'icona, no, generazionale, quindi diciamo un'elegia rispetto appunto al destino di un decennio, al destino di una generazione incarnata in queste due figure. Senti, per saperne di più e per avere anche un calendario eventuale di proiezioni in rete, dove si può cercare? In rete non è visibile. Ok. Ci sono dei trailer, un paio di trailer ci sono, però non è ancora visibile perché ce lo stiamo tenendo ancora un po'. Certo. Un po' stretto per provare a capire se riesce ad avere una diffusione, cioè può essere una storia che può circolare, certo. Ma lo sta già facendo, insomma, sta già partecipando a diversi festival, ha vinto un premio e questo insomma, cioè io sono estremamente soddisfatto e contento, non solo insomma no, per il mio lavoro, ma forse soprattutto perché credo che siano dei riconoscimenti nei confronti del valore di una storia. Sì. E per saperne di più, stai sempre in internet, hai un tuo luogo? Sì, beh, io sono facilmente, sono dappertutto su internet. Mi si riesce a trovare facilmente, come probabilmente hai fatto tu. Sì, le notizie girano comunque, sì. Va bene. Germano, io ti ringrazio, un abbraccio e magari a presto. Grazie, a presto. Ciao. Ciao. Germano Scurti per il documentario Elegia per la vita. È tutto per Visionari di questa settimana, torniamo giovedì prossimo per l'ultima prima della pausa estiva, sempre dalle 14 alle 15, e i riferimenti sono sia sul sito della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, sia su Facebook, l'indirizzo di posta elettronica nuovamente visionari@ondarossa.info.